Allora, 18 e 37 minuti primi, venerdì 29 marzo 2019, torna la teologia estrema delle ore di religione, come più o meno ogni venerdì a quest'ora. Allora, sono successe diverse cose nel corso di queste due settimane che non ci siamo sentiti. La settimana scorsa siamo andati in replica. Allora, intanto è arrivato Xi Jinping a Roma e questo, diciamo, ci interessa perché pare che ci sia stato quasi un la possibilità di un incontro ai massimi livelli fra il Papa e Xi Jinping. Poi non c'è stato, ovviamente le notizie sono abbastanza rimasticate per quanto ci riguarda, diciamo, purtroppo, però ecco. Le diplomazie erano al lavoro. Eh sì, e c'è stato un invito ufficiale a Parolin, se non vado errato, insomma a qualcuno di questi di altissimo livello per andare a tanto Pechino. Xi Jinping, Parolin, esatto, è meglio mandare uno. Poi i Veneti con la Cina hanno sempre avuto una certa relazione da Marco Polo ad oggi e quindi quello però è invito ufficiale, insomma, quindi sì, non sono un conto, cioè quello sono è la diplomazia, appunto, il capo di stato. Nel caso specifico Bergoglio sarebbe il capo di stato, non è che lo chiama in quanto, certo, vescovo di Roma, ma come capo di stato, che chiaramente il doppio, diciamo, la doppia funzione cioè traspare come sempre, oggi più che mai, quando, visto che insomma quello staterello gli serve proprio per comunque operare pur anche, piccolo, ma ha la sua enorme valenza. Ma il territorio conta, perché il popolo sta sparso ovunque. Sì. Diciamo che è il più grande, diciamo, è il più piccolo stato del mondo, notoriamente, fatto di una popolazione, sono tutti migranti. Certo. Che stanno tutti fuori. Nativi ce ne sono pochissimi, insomma, credo neanche 2000, se non sì, vado qualcuno. Nativi poi no, in teoria. Beh, magari qualcuno che è nato. Beh, nel senso, lo Stato Vaticano non si riproduce, tanto per così. Certo. Ricordare anche questo convegno, questo allegro convegno. Allegro convegno del XII secolo, che, insomma, è un documentario da BBC sul XII secolo, se io l'ho presa così. Beh sì, se senti tutto, sì, metti le affermazioni una dopo l'altra. È meglio che drammatizziamo, sì, appunto. È agghiacciante. Insomma, vabbè, comunque, insomma, ecco, parlano di alcune cose sulla demografia, no? Le mamme, bisogna fare i bambini, queste ciance così un po' arcane. Non sono neanche definibili. No, perché poi un tempo non c'erano questi problemi. Per cui è vero che è XII secolo, però nel XII secolo non ci si stava lì a dire dobbiamo fare figli, perché se no. Assolutamente nessuno. Era un problema che non ci si poneva. Ma no, assolutamente, ma fino all'altro ieri. Anzi, la questione era opposta. No, il povero Malthus faceva dei calcoli su un mondo che era completamente, diciamo, proprio fantascienza. Fuori controllo. Beh, in realtà lui fa dei calcoli non a caso su ambiti, diciamo, di spazi molto ristretti, no? Cioè lui dice in un'area di un tot quanta terra è, capito? Perché non considera quanto serve. Esatto. Allora, diciamo, dice se c'è poca terra, c'è tanta acqua, i calcoli erano molto inquietanti. Eh sì, oltre una certa soia i bambini però muoiono, oggi, appunto, perché i demografi proprio su Malthus, che non è un ciarlatano, attenzione, è una figura, cioè una persona seria che ha fatto degli studi come tutti quelli che nel passato si sono cimentati gettando le basi poi per le scienze. Quello è il primo, diciamo, esatto, è il fondatore della demografia. Come tutti ha, diciamo, i problemi del contesto, lo sguardo, le determinate, poi anche lì c'è limiti, c'è, anche, c'è, no? L'immigrato irlandese cattolico che fa, esatto, un sacco di figli, esatto, e poi certe questioni tornano sempre. Comunque, insomma, c'erano delle considerazioni diverse, diciamo, da quelle di oggi. Però ecco, lo staterello Vaticano è infertile dalle origini come staterello, quindi è nasce infertile, sì. Poi c'ha il fondatore che c'ha un menage à trois, perché i genitori, sta famiglia naturale, insomma, c'è un menage à trois di, diciamo, di uno dei tre della, che è così, della famiglia piuttosto evanescente, il tutto con una fecondazione artificiale molto misteriosa, per via auricolare, almeno tutto il Medioevo le venivano. Però anche questo non era un problema. No, cioè, è stato accettato tranquillamente per secoli. Che qualcuno non l'ha fatto veramente. Esatto. Allora lì, no, era sono magia. Rimasti, però cioè, fino appunto all'Ottocento, cioè, non ci si stava. Non dicevano, capito? A rompere le scatole su tutto questo. E vabbè, quindi insomma, questo era per chiosare. Chiosiamo. E a proposito di chiose, poi c'è anche la questione dell'Osservatore Romano, da cui si è dimessa tutte. Diciamo Lucetta Scarafia, che era il 90%. Si sono dimesse con la Scarafia direttora. Esatto. La Scarafia, che era la responsabile del mensile, diciamo così, dell'inserto femminile dell'Osservatore Romano, ma anche se detta così forse non rende bene l'idea. E un'operazione piuttosto complessa e problematica per un giornale come l'Osservatore Romano, potete ben immaginare. Lei, fra l'altro, è un personaggio importante all'interno della teologia cattolica femminile. Non è neanche una teologa, cioè il dibattito suo sulla questione della donna non è neanche, sempre usando le categorie, diciamo, di sinistra. Cioè, è una donna che opera all'interno operava come firma dell'Osservatore Romano e poi direttrice di questo mensile, che sono dei fogli interni mensili, che sono, diciamo, un po' approfondimenti così, e che era così nato in questa forma, gestita da un gruppo di donne, proprio in virtù di quelli che sono stati gli sviluppi degli ultimi anni sulla questione femminile, felpata ma per dare dei segnali. Certo. Quindi lei ha, appunto, diciamo, non è di sinistra, cioè non è una teologa radicale, perché ci sono le teologhe cattoliche radicali, quindi per esempio sulla questione, ad esempio, del sacerdozio femminile e anche sul celibato in generale, ovviamente, quindi maschile e femminile, per non parlare della questione, diciamo, delle suore o monache, insomma, fino al problema anche quello teologico, perché il femminismo radicale, nel senso dal punto di vista vaticano, certo. non di questo parliamo, viene giudicato, parliamo. Così e critica anche abbastanza aspramente la clausura, questo ambito, no? Ma con discorsi teologici, non sì. E ci sono teologhe di clausura in tutto questo. Certamente. E poi dall'altra parte invece c'è tutto un mondo che però si va affievolendo, specialmente, diciamo, in quello che è lo scenario femminile. Lei, che sta in mezzo con, diciamo, una visione anche abbastanza tradizionale, però in realtà non lo è fino in fondo, perché una delle sue proposte più interessanti del dibattito che, diciamo, c'è stato attorno alla questione femminile è stata la richiesta di un cardinale donna. Qui dobbiamo spiegare, però, perché il cardinalato, che è una carica amministrativa, in realtà non è detto che non bisogna neanche essere sacerdote, diciamo, esatto. In teoria. E in passato così è stato, certo. E quindi, insomma, la porpora. A parte che è una cosa molto tarda, che non, insomma, questa struttura che deve, insomma, per esistere, anche, diciamo, i nostri ascoltatori ormai, almeno i famosi 22 fedeli, hanno imparato a ragionare e quindi conoscono bene un po' le dinamiche, sanno che prima di arrivare a crearsi una corte e un'amministrazione ci vuole dei secoli, insomma, per dargli quella struttura. Questi in particolare di cui parliamo noi sono post-tridentini, quindi sono l'assetto, diciamo, quello proprio che arriva dal concilio fino a quello di Trento. Anche dal punto di vista dell'immagine, come sì, vediamo sì, anche dal punto di vista adesso. Dell'immagine, sì, sono più o meno quelli, diciamo, poi si vedono nei dipinti, anche se comunque i colori hanno radici più lontane, ma poi, diciamo, sono ben definiti. Perché il concilio di Trento, che è molto complesso, comunque ricodifica tutto, nel senso, dovendosi blindare, fa, diciamo, tutto quello il che il pericolo era perfino grosso. Chiaramente anche tutta una serie di regole, ovviamente, come dire, araldiche, se vogliamo, anche, insomma, ecco, in senso lato, no? Cioè di posizioni, dei ruoli, quindi una definizione, perché sta cambiando il mondo anche lì in quel momento, e serve quindi un organigramma nuovo. Quella è una controriforma, ma è anche una riforma, nel senso c'è pure lì una lunga querella se sia una controriforma, scaturisce, è contro il termine contro. Non è errato, perché scaturisce da una cosa che non avrebbero voluto, o se è stato per loro se la sarebbero risparmiata, almeno in un'altra forma. Però è anche una riforma, perché dovendosi confrontare fanno delle, cioè, scelte che sono anche moderne nel conservare, perché delle invenzioni che nascono dopo, tipo l'indice dei libri proibiti, che non è un prodotto di Trento, ma è un prodotto del clima di Trento. È una, diciamo, una reazione alla presenza di libri proibiti. Esattamente. Quindi è un problema che viene affrontato comunque in termini moderni. Dopo poi uno dice no o sì, e quelle sono le posizioni. Quindi questo è, diciamo. E quindi la Scarafia proponeva proprio l'idea di Puto di fare, ovviamente tu carina è donna, certo, se no, sì. In questo senso che è geniale, perché bypassa completamente tutto il dibattito sul celibato, il sacerdozio femminile, e viene data come un segnale in cui un ruolo, per esempio quello, cioè un cardinale donna che non è un vescovo, cioè, che però ha la funzione all'interno della gerarchia, e con la possibilità di occuparsi per esempio proprio delle donne, quindi una donna che si occupa interna alla Chiesa, certo, no? Quindi, che però che così ha a che fare con gli ordini femminili e tutto, e no, ma sarebbe un disastro. No, a quel punto qualcuno potrebbe dirti: se sei cardinale sei eleggibile al soglio papale. Andando in punta di diritto, lo so che no, però no, diciamo, perché sarebbe un cardinalato che non rientra, diciamo, nel fatto che quelli che per essere eleggibile devi essere comunque un vescovo, quindi è un grosso problema. È un mattone, certo, no, no, io volevo solo segnare, non vogliamo qui oggi risolvere volendo anche, no, ci farebbe piacere, se non altro per raccontarlo, noi facciamo cronaca, insomma, che già abbiamo due papi, esatto, poi... quindi ecco, sarebbe piacevole, così come proprio news. Beh sì, uno sembra un news rilevante, esatto, ma al di là del fatto che non avverrà certo in tempi brevi, l'idea, comunque la provocazione, perché era una provocazione, era abbastanza puntuale, perché cioè, molto complessa, ma come ho detto prima, diciamo, sorvolava, bypassava anzi il problema del sacerdozio, il problema del sacerdozio femminile, che, insomma, mentre invece sempre in questo ambito del dibattito le donne lì dentro stavano anche a testimoniare quello che nel sinodo, diciamo, che aveva discusso della famiglia, quindi anche il ruolo delle donne, che è stato molto, perché si parlava del diaconato femminile, e di cui noi abbiamo anche parlato, sì, certo. Ho spiegato anche come è possibile che la cosa abbia un pieno legittimità teologica, perché noi facciamo anche l'analisi dal loro punto di vista, perché certo. È chiaro che da un punto di vista storico è ovvio che non c'è alcun problema, insomma, le vestali erano sacerdoti femminili. Stiamo parlando dell'VIII secolo anticristo. Anche prima, così, insomma, così. Di donne che custodiscono un fuoco sacro, diciamo che c'è ampia testimonianza. Si suppone che siano anche, diciamo, indietro nel tempo, insomma, il bronzo e anche prima. Quindi certamente non è quello il problema. Quello che è il problema della questione femminile ovviamente deriva da, come dire, il maschilismo ontologico della Chiesa Cattolica, se non altro perché la grande domanda, no? Che, cioè, ci sono tante domande che forse molti si sono fatti, ma se le sono fatte talmente quando se le sono fatta questa domanda talmente indietro nel tempo, che è molto infantile apparentemente, e uno non ci pensa più, anche se è una domanda difficile ovviamente nella sua proprio semplicità, come sono le domande infantili quando però colgono qualcosa di essenziale, cioè perché Dio manda un figlio e non una figlia. Sì. Ovviamente. Visto che non mando un angelo, che notoriamente vogliamo parlarne, o lasciamo il dubbio ai nostri ascoltatori? Ma ormai non c'è più gusto, perché quelli vanno a cercare, oddio, non è che sì, ci si trovano delle risposte, però insomma non è così chiaro, a parte che le prime due pagine sono risposte loro, certo, vabbè, per forza non trovate risposte. Scrivendo questa cosa trovate tutte le risposte che danno, quelle ufficiali, e poi ci sta tutto un ampio dibattito dietro, che però insomma è più difficile da ripescare. Allora, dal punto di vista storico non ha mandato nessuno Dio, ma c'è un profeta maschio, perché i maschi erano i profeti. Diciamo, gli profeti sono sempre stati, perché tutto il mondo antico è fatto così, e ovunque, mondo antico quello nostro, no, non in assoluto, ricordiamolo, anzi stiamo parlando comunque di una matrice ebraica, che è quella originaria, e questo era un ebreo, e, diciamo, le donne nell'ebraismo in quell'epoca in particolare non erano proprio, come dire, al centro dell'attenzione dei quadri di potere, dirigenti. Insomma, esatto, anzi tutt'altro, la donna era proprio quello di cui si discute a Verona, ma era normale perché 2000 anni fa, diciamo, la situazione era quella. E questo che loro vogliono è quello, insomma, perché poi ha retto sostanzialmente così per un periodo appunto piuttosto lungo, fino a ieri, come modello. Poi anche lì ci sono degli aggiustamenti, per esempio quando parlano di matrimonio, il matrimonio, quello di cui parlano, non ha nulla a che vedere, perché non esisteva proprio, quindi fino a, diciamo, il concilio lateranense mi sembra viene regolamentato, ma siamo nel tardo medioevo, è un processo, passano secoli e secoli prima che si arrivi a una... del XV-XIV secolo, insomma, quando si comincia a delineare quello che viene, diciamo, discusso, no? Questo matrimonio indissolubile in questa forma. Quindi non certamente c'è, diciamo, c'è una, ma c'è un rito, diciamo, in tutte le culture consolidamento delle relazioni, ma non in quella forma. Quindi anche questo è molto molto, è anche perché è tutto relegato al modello, poi, insomma, del diritto romano, che si adatta in quello che diventa poi il diritto italiano, insomma, giustiniano. È un processo che però rimane, appunto, a lungo vigente, per cui, per esempio, anche questo. Ma al di là di questo, c'è il figlio, perché quello non è un figlio, lo diventa dopo morto, certo, lì per lì è uno dei profeti, tanti morti, e non poteva essere maschio nella religione e nell'ebraismo, nel luogo e nel tempo, esattamente. E che lui avesse delle donne da seguaci era anche, diciamo, abbastanza coerente con la visione che lui aveva di tipo apocalittico, e che quindi, proprio in vista di una fine dei tempi, reclutare gli ultimi, quindi i bambini, anche le donne, e le donne che sono proprio, erano gli ultimi degli ultimi, come proprio figure sociali, al di là dei poveri, ma proprio bambini e donne che erano, insomma, i piccoli, i famosi bambini, sì, parvoli, venite parvolo. E quindi, diciamo, lui, questo Yeshua, cioè, recluta, perché proprio sono oggetto di una dichiarazione, cioè sta finendo il mondo, anche questa distinzione così non ha più senso. Quindi anche, proprio, soprattutto queste figure, anzi, sono di insegnamento proprio, no? Nella purezza del bambino, quindi tanto per ricordare che comunque chiunque dà scandalo a un bambino è meglio che si metta una macina al collo e si getti, diciamo, nel fiume, pensate. Queste parole, diciamo, chiarissime. Ci sono oggi alcune decine di migliaia di sacerdoti che, insomma, con delle macine al collo dovrebbero almeno, sì, ma sai, abbiamo sempre ricordato che queste parole sono a liberissima interpretazione, certo, e quindi diventa maschio dopo che questo povero ebreo, che non c'entra niente con quello che viene detto dopo, piano piano, da Paolo in poi, si consolida questa figura, e che, come abbiamo sempre notato, a cascata si trascina la povera madre, perché va disumanizzato, certo, sia lui che lei. E da qui c'è, diciamo, allora la spiegazione del perché è maschio, è perché è patriarcale e maschilista nel senso ontologico, non in senso moderno, cioè sceglie proprio di essere così, la tradizione religiosa, perché quella cultura che la esprime precedentemente già è strutturata su un'organizzazione maschile, tribale, che precede anche la Torah come la conosciamo, quella del IV secolo, insomma, strutturata, e poi ovviamente il dibattito che c'è dopo fino a Yeshua. La risposta teologica è ovviamente capziosa, perché non è una risposta, nel senso che, se non consideriamo quello che ho detto, che è di tipo storico, bisogna accettare l'idea che, appunto, Dio sia quello di cui parla la teologia, che è quindi asessuato, anche se è maschile. Linguisticamente c'è il problema della traduzione, no? Gli ebrei, cioè, a un certo punto cominciano a stare attenti a pronunciarlo, proprio, certo, proprio per evitare di porsi la domanda di chi stiamo parlando, no? E quindi questa figura non è, diciamo, sessuata. Certo, la tendenza all'antropomorfizzazione precede qualunque tipo di teologia, perché è quella profonda, arcaica, che risale ai Sapiens di decine di migliaia di anni prima, quando si cominciano a delineare nella mente delle figure così nel cielo, anche già nei cacciatori e raccoglitori, che comunque i fulmini, il sole, la luna più che altro, perché il sole è più legato, cioè, certamente, ma molto più legato ai grandi cicli stagionali, quindi l'agricoltura, mentre la luna segna dei tempi più stretti, 28 giorni, ed è il primo calendario, e anche serve a parte che illumina, e quindi di notte si può muovere, mentre senza luna no. È un grosso nel problema. Nel buio totale la luna piena è come un faro, diciamo, di Cinecittà, mentre se è buio totale è buio totale, e questo è stato fino a 150 anni fa, per cui tutto il mondo era buio, a parte i fuochi, che non, insomma, non è che illuminino granché. E quindi c'è questi, diciamo, si delineano queste figure che sono, diciamo, però ecco, in termini di oggetti dell'universo sacro, cioè dell'immaginario sacro dell'uomo, dell'umanità antica, abbiamo, non so, cito quella più nota perché è stata anche addirittura, come dire, è comparsa in varie, come un oggetto, la Venere di Willendorf, che è una donnona, insomma, quella col pancione, il tettone, no? Mi sembra un po' una figura felliniana molto, no? Giustamente. Vedi però le relazioni fra l'oggi e 10.000 anni certo, fa. Certo, la tabaccaia di Amarcord. Insomma, queste donne prosperose. Perché, diciamo, anche la fertilità, cioè l'allattamento, no? Hanno un grosso significato, certo. Certamente. Quindi molte figure femminili, mentre la figura più antica maschile è una statuina trovata in Germania, mi sembra, in Germania attuale. Sì, all'epoca, diciamo, all'epoca non ci prestavano attenzione, era una enorme foresta nera. Ed è un omino con la testa di puma, di leone di montagna, perché c'erano anche qui in Europa, non dimentichiamo, e quindi non un cinocefalo, perché i cinocefali vengono del Medioevo, ma che sono dei umani con la faccia di cane, ma più o meno simile, invece, diciamo, da felino. E queste sono le due più antiche rappresentazioni antropomorfe di divinità. Questa è la Venere di Willendorf, che non è effettivamente come una donna reale, ma è una donna astratta, una femminile.